La mattina si svegliarono e scesero per la colazione. Fuori splendeva il sole e gli uccelli cantavano dolci e leggere melodie. Le gocce d'acqua scivolavano dalla finestra e subito sotto la collina un banco di nebbia nascondeva i fiori e l'erba verde. Appena si furono vestiti, aprirono la porta e scesero le scale. Sotto il banco di nebbia il terreno era flaccido e bagnato. Un tappeto di cadaveri. Un tappeto di cadaveri.